Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Com'è oggi il mercato della mobilità elettrica? Per esempio, è possibile recarsi in un concessionario per acquistare un'auto elettrica? Insomma, questa sera ci chiediamo fino a che punto possiamo considerare la mobilità elettrica un'opzione concreta e fino a che punto invece parliamo di qualcosa che alla fine è ancora di là da venire. Ebbene, per cercare di rispondere a queste domande ci affidiamo ad un osservatore particolare, che è Fabio D'Accol. Buonasera Fabio. Buonasera a te Maurizio e a tutti gli ascoltatori. Dunque, Fabio D'Accol, che ho conosciuto di recente, è Project Manager di Clima Mobility, che è la fiera della mobilità sostenibile di Bolzano, che aprirà i battenti proprio settimana prossima e che è la prima edizione, vero Fabio? Sì, esatto, la manifestazione si svolgerà qui presso Fiera Bolzano dal 22 al 24 di settembre, da giovedì a sabato. Ed è un evento dove presenteremo diversi veicoli elettrici che possono essere testati, ci sarà anche una serie di conferenze interessanti dove approfondire i temi della mobilità sostenibile in generale e poi anche di quella elettrica in particolare. E comunque insomma ci si troveranno tanti veicoli elettrici lì, si possono vedere, si possono toccare e anche testare, forse questa è la cosa più interessante e poi un po' questo è il tema proprio di oggi, perché la domanda è, diciamo che uno dei nostri ascoltatori appunto voglia comprarsi un'auto elettrica. Oggi che offerta si trova davanti, proprio dal punto di vista del mercato? E chi sono oggi gli attori più attivi sul mercato in questo momento? Beh, diciamo che è un mercato in grande fermento, dove le grandi case automobilistiche si stanno attrezzando per affacciarsi sul mercato, dove però ci sono già anche delle realtà consolidate da anni. Se uno oggi desidera acquistare un veicolo elettrico, di fatto ha già la possibilità di indirizzarsi verso dei quadricicli, delle vetture piccole, delle microvetture, che in Italia sono offerte già da numerose piccole aziende, cito qualche nome, Tazzari, Estrima, Italcar, Ducati Energia, Movitron, sono tutte aziende che già operano in questo settore e che danno una soluzione concreta per cui uno da loro può acquistare un veicolo a quattro ruote che si muove con la corrente. Mentre per quanto riguarda le case auto in questo momento invece non è così, vero? Ci sono molti annunci e è imminente l'esordio sul mercato, a quanto pare, di molte case auto, però concretamente oggi è molto difficile comprarsene una. Sì, è così. Ci sono è stata anche annunci. Un po' la vostra esperienza, vero, nel mettere insieme questa fiera? Assolutamente sì, noi speravamo di avere in fiera anche qualche grande marchio, alcuni di questi ci avevano confermato la loro partecipazione, poi all'ultimo momento è saltata. E proprio perché queste macchine elettriche delle grandi case stanno arrivando ma non sono ancora qui. Arriveranno, loro hanno delle scadenze, 2012, chi 2013, dove presenteranno i veicoli proprio nelle concessionarie, però di fatto in questo momento il mercato è più in mano di questi piccoli produttori specializzati che già da anni lavorano sull'elettrico. Ecco, come ti spieghi che queste società così piccole si siano buttate dentro un business nel quale sappiamo che a livello mondiale dominano le grandi case auto? Cioè, insomma, ormai abbiamo imparato anche dalle recenti vicende Fiat che ci vuole una produzione di svariati milioni di veicoli all'anno per essere competitivi con gli altri. Allora, come mai questi piccoli ci provano lo stesso? Ma io credo che qui dietro ci sia la visione di imprenditori in gamba che magari con spirito pionieristico capiscono che comunque l'era dei combustibili fossili e delle auto con i motori termici è un'era che si avvia, adesso non alla conclusione, ma comunque ad un cambiamento. Quantomeno un ridimensionamento. Sì. A un ridimensionamento, assolutamente sì. Per cui hanno ben pensato di dare attenzione a questa alternativa, a questa nicchia di mercato che oggi ancora è, per posizionarsi e magari in futuro ottenere una piccola fetta di mercato, che può diventare grande, perché proprio oggi leggevo uno studio di A.T. Kearney, che è una società di consulenza americana molto grossa, hanno dichiarato che potrebbe essere che nel 2020 una macchina su 10 sia una macchina elettrica. Ecco Fabio, però finora abbiamo parlato di auto elettrica e rischiamo di cadere anche noi in questo errore per cui si identifica la mobilità elettrica con l'auto elettrica. Invece non è così. No, non è così, perché ormai già da diversi anni sul mercato ci sono anche i pedelec, le biciclette elettriche, che permettono di muoversi velocemente e comodamente nelle nostre città, e ci sono gli scooter elettrici, anche questi ormai già da anni sul mercato, che sostanzialmente non hanno nessunissima differenza di utilizzo rispetto agli scooter tradizionali. Cioè, oggigiorno uno scooter elettrico come prezzo parte da prezzi più che accessibili in linea con il mercato dei motori termici, perché si parla di circa 2.000 euro per l'acquisto di un modello base, ha un'autonomia che è assolutamente paragonabile con quella degli scooter tradizionali, perché puoi fare da 40, 60, anche fino a 80 km con uno scooter elettrico, e tu fai il pieno nel tuo scooter elettrico mettendoci dentro la corrente con una spesa che si aggira attorno ai 0,15 euro per ricaricare completamente la batteria. Quindi questa di fatto è un'alternativa fantastica. Cioè, se vogliamo, le macchine hanno ancora qualche differenza sostanziale, le macchine elettriche rispetto alle macchine termiche, in termini di autonomia. Mentre questo gap, certo, è stato colmato completamente, completamente su questo, esatto, versante di scooter elettrici, e vale forse qui la pena di ricordare che ci sono anche dei piccoli vantaggi aggiuntivi, perché se non ricordo male il bollo non si paga per 5 anni, anche l'assicurazione credo che sia dimezzata. Sì, esatto. Poi ci sono alcune comuni, alcune province che danno anche degli incentivi. Attualmente è in discussione un incentivo statale per i veicoli elettrici, ma non è ancora stata presa una decisione in questo senso. Però cito per esempio la provincia di Trento, dalle nostre parti, che dà un contributo fino a 600 euro per lo scooter e addirittura un contributo fino a 8.000 euro per l'acquisto di una macchina elettrica. E a quel punto si annulla il gap di prezzo e diventa veramente un'opzione interessante. Grazie Fabio Daccol. Grazie a voi. Bene, anche per oggi è tutto. Appuntamento a domani 21.05 qui su Radio 24. Buona serata.